buongiorno e bentornati ai Fuori Posto. I Fuori Posto di Umberto Alezio e Filippo Roma. Ma che è sta cosa? Ma che ogni è sta riferimento cosa? A fatti e persone è puramente casuale. No, Umberto, a me non piace sta cosa, sta canzone. Prendi la mano e stammi vicino, dammi la mano e stammi vicino. Qui c'è qualcosa che non va. Ma mica l'ho messa io, mica l'ho scelta. Sì, l'hai messa te, mo m'hai rotto le scatole, Umberto. Tu stai utilizzando un mezzo pubblico, cioè la radio, per fini privati, cioè riconquistare la tua donna. E non va bene. Ma non è vero, ma non l'ho messa io, perché te la prendi con me? No, m'hai rotto le scatole. Eravamo venuti qua per fare un programma serio, per parlare di politica, società, cultura, e tu stai usando la radio e l'ho scoperto per riconquistare la tua ex, cioè per i cazzi tuoi. Cioè, tu vuoi dire che mi sono inventato la rubrica Fuori Amore per... Sì. Sì. Fini personali? Io all'inizio pensavo fosse sei uno scherzo, una cosa, un'idea carina. Invece io ho capito, no, che tu... Ma Fuori Amore lo nasce, stai usando per come ultima arma, come ultima carta. Vabbè, sì, lo confesso, cioè, dillo. E non sarà l'ultima carta, perché io non mi arrendo. Oltre a fare un programma in radio, no? Potrei fare anche un programma in TV e un film per riconquistarla. Tutto, tutto, tutto. Magari è possibile. Il sabato sera su Rai 1. Chi può dirlo? Comunque, vabbè, poi l'argomento, vedi che l'argomento appassiona, no? Mi scrive per esempio Francesco da Padova, sì. No? Ma il segreto di un amore è non avere segreti, cari Fuori Posto? Che domanda che ha fatto Francesco da Padova. Molto una profonda. Domanda molto profonda, cioè, non lo so, caro Francesco, io ti posso dire l'esperienza di qualche giorno fa. In radio, no? C'è la mitica redazione di Radio 24, Max, della redazione di Radio 24, ci ha detto, ci ha confessato, no? Lo possiamo dire. Sì, diciamo, tanto ormai è diventato un luogo dove i fatti privati diventano pubblici. Max della redazione di Radio 24 ci ha detto: cari ragazzi, purtroppo sono un po' angosciato perché sono omosessuale, ma non so come dirlo alla mia ragazza. Ah, ecco, quindi, potrebbe essere un'occasione questa. Quindi la domanda che voglio lanciare a chi ci ascolta, no? È la seguente: voi siete innamorati e avete comunque custodite comunque dei segreti o no? Rispondete a iforiposto@radio24.it. Devo ammettere purtroppo che benché io sia totalmente in disaccordo con questa strategia di Umberto per conquistare la sua ex, i nostri ascoltatori si stanno appassionando alla sua storia. E c'è scritto anche una ragazza, tale Susanna da Roma. Che dice Susanna? Senti cosa ha scritto Susanna, mi ha incuriosito questo messaggio. Mi sono sentita fuori posto anche io quando ho provato attrazione a 27 anni per un uomo di 70 anni. Addirittura? È come se l'amore o la passione non avessero l'età, Umberto. Adesso, per ritornare al mio caso, sempre. Fuori Amore funziona, peraltro. Cioè, è una cosa che comunque... Vedi? Ecco, pure la sigla, ma... Vabbè. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the pride. Peraltro, quando parte la base Fuori Amore, come, no? Ti brillano gli occhi. Sì, mi brillano gli occhi e brilla anche il nostro numero WhatsApp, no? Che... Qual è? Ricordiamolo, che è il 349-2386-666. Comunque, ma sta Susanna, no? Che ha provato attrazione per uno più grande di lei. L'abbiamo chiamata, Filippo? Ebbene sì. Ciao Susanna. Ciao, buongiorno. Ciao Susanna, benvenuta a Radio 24 e Fuori Posto. Grazie. Perché ti sei sentita fuori posto? Perché praticamente qualche anno fa ero ancora molto giovane, uscivo da una storia molto importante. Era Ferragosto, mi trovavo a Positano, insomma, praticamente ero triste perché mi ero appena lasciata e ero con le mie amiche, cioè avevamo tanti ragazzi intorno che ci rompevano le scatole, a me invece mi aveva colpito uno che stava a un bancone. Bancone del bar. Un barista. Sì, al bancone di un bar, no? Un signore grande, diciamo, lui ha 72 anni per la precisione. E tu quanti anni avevi? 27. Hai capito? Ma senti, ma che tipo di attrazione o interesse hai provato per quest'uomo un po' avanti con gli anni? Ma la cosa è stata che siccome avevamo tutti questi ragazzetti intorno che ci provavano, lui mi guardava come per dire, ma che questi che ci devi fare, capito? E quindi è stata una cosa soprattutto visiva, perché lui mi guardava intensamente. Insomma, cioè tu eri attratta? Sinceramente sì, non sapevo da cosa lì per lì, poi avevo bevuto una cosetta in più, mi sono avvicinata, abbiamo cominciato a parlare e da lì insomma cioè, la cosa è continuata chiaramente. Scusa, tanto non ci sente nessuno, ma ti posso chiedere una cosa? Ma, prego. Ma ci hai fatto roba con questo settantenne? Quello che è stato possibile, nel senso noi abbiamo avuto proprio una relazione. Ah, c'è stata proprio una storia? Sì, fino a quando praticamente poi la moglie, perché chiaramente era un signore sposato, ci ha scoperti. Era ancora viva la moglie? Proprio... Data l'età, era ancora viva la moglie? La moglie era viva, lui invece adesso è morto però. Ah, pure. Con una 27enne, ma la... il discorso è stato che comunque era una storia particolare, perché comunque anche per fare, diciamo, no? Sì, abbiamo capito. Andiamo avanti. Chiaramente non era semplice, no? In che senso? Quindi, nel senso che comunque avevamo bisogno di aiutini, però lui ogni volta sudava troppo, cioè aveva le palpitazioni, tutte queste cose, quindi comunque penso che non gli ha fatto bene. C'è da dire che magari ha trascorso l'ultima parte della vita, magari... Divertendosi sicuramente. Hai capito, cioè, Susanna? Un gran finale con una 27enne. Vabbè, anche questo è fuori posto, anche questo, no? È fuori posto. C'è una speranza per tutti noi, Umberto. Anche noi magari a 72 anni troveremo una 27enne. Non lo so. Perché è stata una storia bellissima. Questo almeno era piacente. Noi facciamo cagare adesso, faremo cagare figura anche... a 72 anni. Saremo inguardabili. Era un bell'uomo lui, era un bell'uomo. Vedi, Susanna, come tende a precisare. Lui era un... Cioè, per dire, non come voi. Certo, poi era perché... No, esattamente. Lui era bello. Ah, esattamente. È stronza, un po' acidella, Susanna, però insomma, però carina, caruccia. Comunque lo sguardo, vedi Umberto, incredibilmente uno pensa a 70 anni, ormai sono vecchio, invece basta uno sguardo giusto, no? Rivolto con l'intensità. Giusto, esatto. Perché, penso, diciamolo chiaramente, no? Conta l'amore, l'età insomma è solo relativa, no? No, l'età non conta proprio niente. Tu sei la dimostrazione. Non è banale dirlo, no? Non è banale dirlo, l'età non conta, giusto? Ma assolutamente, che vedi? Vedi? Va bene. Anche perché io dopo il 72 anni poi sono stata con uno di 18 anni, quindi ammazza che vita intensa che c'hai, hai capito? Vabbè, Susanna, qui c'è anche Umberto che è libero e ricerca, sì, a ricerca purtroppo di un amore, io quindi... ho il cuore impegnato, cioè sono libero ma ho il cuore impegnato e poi comunque quando vuoi io anche quelli di mezza età mi prendo. Vabbè, grazie Susanna, grazie per la considerazione, grazie Susanna per la tua preziosissima grazie testimonianza. Ciao. Hai visto? Alla fine l'amore, no? Non è età, no? Non è età, può capitare effettivamente. Come qualsiasi cosa, no? Pensa che proprio l'altro giorno sono stato rapito, da no? Da purtroppo non da lei. Infatti immaginavo. Purtroppo non da lei, ma da un articolo, no? Di un concorso di bellezza. Sì. Dico subito che è un concorso di bellezza molto particolare. Si chiama Miss Mamma Italiana. Ah, Miss Mamma. Concorso di bellezza e simpatia, no? È stata proclamata proprio qualche settimana fa a Gatteo Mare, no? Sulla Riviera. E la cosa che mi ha colpito è che leggevo alcune interviste, vedevo alcuni video, c'è che ci sono tante mamme ogni anno prontissime a sfidarsi, no? Per contendersi il titolo di Miss Mamma Italiana, no? Molto interessante questa cosa. Allora ho pensato, no? Il nostro programma si chiama Fuori Posto, no? Uno si aspetta Miss Italia, invece c'è anche Miss Mamma. Ho detto, chiamiamo il patron di Miss Mamma, Paolo Teti. Ciao Paolo! Ciao, buongiorno! Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a Filippo, buongiorno a tutti i radioascoltatori e passami anche questo saluto particolare a tutte le donne e a tutte le mamme che sono all'ascolto. Tu sei il Mirigliani delle mamme. Tu sei molto gentile, ti ringrazio. Il concorso Miss Mamma Italiana ci permette di poter essere il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia dedicato alla figura della mamma, con maggior successo, con maggior interesse, con tanta tanta partecipazione da parte di tutte le mamme italiane. Senti Paolo, ma le mamme quando si sfidano, no, per la corona, per il titolo, sono agguerrite o la prendono come un gioco? Dici la verità. Dunque, siamo giunti alla 24esima edizione. Fino a qualche anno fa era più un gioco. Oggi è una manifestazione in cui le mamme mettono tanto, tantissimo di se stesse con un unico obiettivo, vincere. Cioè, sono disposte a scannarsi, mi pare di capire, giusto? Per vincere. Sono mamme, tra virgolette, la donna è una donna dolce e così deve essere, però quando sono in competizione danno il massimo di se stesse per centrare l'obiettivo, certo, e in questo caso diciamo la vittoria. A tal proposito, scusa, una curiosità, ma è mai capitato che qualche mamma ci abbia provato con te in quanto patronna per avere una agevolazione per poter vincere? Succedono queste cose? No, questo fortunatamente no, e mettono in campo tutta la loro voglia di poter vincere, ma onestamente questo a me non è mai accaduto, anche perché la nostra società è composta da me, da mia moglie Grazia, da mia figlia Giorgia. Quindi c'è la moglie, è un carabiniere. Ti sorveglia. Senti, dici invece un episodio che ti ha colpito particolarmente. In 20 anni ci sarà stato, no, un aneddoto di qualcosa che ti ha colpito particolarmente a Miss Mamma Italiana? Beh, sicuramente più di uno. Ad esempio una signora di Venezia di nome Katia, e che ha partecipato qualche anno fa, era in crisi con il marito, erano decisi alla separazione più il marito che la moglie. La moglie ha giocato con Miss Mamma Italiana, ha vinto una delle 12 fasce in finale. Il marito si è ricreduto grazie al concorso, parole sue, della dolcezza, della simpatia, dell'intelligenza della moglie. Che bello. E questa coppia è ritornata insieme, erano in crisi, come dicevo, perché erano stati da una 20 anni, siamo rimasti amici, tutt'oggi ci seguono. Cioè, il marito ha pensato, ha detto, in fondo mia moglie è buona, cioè, da buttare. Sicuramente sì. Ha detto è buona, sì. E quindi me la tengo, non la lascio. Senti Paolo, ma quanti anni hanno le mamme? Cioè, qual è, diciamo, il limite d'età per partecipare a questo concorso? Da che età a che età? Quello di essere mamma è di avere un'età dai 25 ai 45, per la fascia gold 46-55. Okay. Senti, ci scrive Romina da Cagliari, vorrei partecipare anche io a Miss Mamma Italiana, ma forse non ho proprio il fisico giusto, ma serve essere una fotomodella, una modella per partecipare a Miss Mamma? A Romina e a tutte le altre mamme dico... Mi riallaccio ad una canzone di qualche anno fa, sono tutte belle le mamme del Dagli mondo, Paolo. Per cui anche Romina è bellissima e può partecipare a Miss Mamma Italiana. Senti, tutte le mamme che ci ascoltano qui ai fuori, che si sentono fuori posto, no? Qui su Radio 24, se volessero partecipare, che devono fare, Paolo? Ripeto, l'unico requisito è quello di essere mamma, le iscrizioni sono gratuite, sono previsti appuntamenti in tutta Italia e possono contattare il nostro sito che è www.missmammaitaliana.it. Hai visto? Allora, informazioni a tutte le mamme, tutte Filippo? Care mamme, se vi sentite belle, fuori posto e volete mettervi a posto con il concorso Miss Mamma, ecco qua l'indirizzo e il modo per partecipare. Potrebbe essere un modo anche per recuperare il rapporto con vostro marito, come ha dimostrato la storia di quella concorrente veneziana. Perché a volte, no? Chi è che diceva che a volte bastano pochi minuti di celebrità per sentirsi meglio, no? Eh beh sì, Andy Warhol credo parlava del famoso quarto d'ora di celebrità che spetterebbe un po' a tutti, no? Era Andy Warhol o Woody Allen? Scriveteci da casa. Non comunque lo so, grazie Paolo, grazie di essere stato con noi. Grazie Paolo. Diciamolo. Voi. Ciao. Dateci una mano, perché io e Umberto siamo un po' ignorantoni, quindi dateci un consiglio. Sì. Chi l'ha detta questa frase? Chi l'ha detta questa frase? Quiz per quelli che ci ascoltano da sotto l'ombrellone o dall'ufficio o dalle macchine, no? Senti, beh, ma quindi è un concorso serio questo? Ste mamme è un concorso si danno serio. Battaglia. È un concorso serio, no? Però a volte capita che le mamme, no? Proprio perché le mamme magari lavorano, ma hanno anche una vita privata molto difficile, fanno salti mortali, no? Per stare dietro i figli, il marito, in più il lavoro, e a volte usano questo concorso per staccare per qualche giorno, no? Un momento di evasione, no? È il caso di Lidia. Oh, abbiamo anche una concorrente. Sì, bene, che è andata in crisi con il marito, no? Perché l'ha trovato, no? A letto con una persona. Porca miseria. Lo chiediamo a lei. E lei, in quel momento, per svagarsi, no? Ha pensato bene di iscriversi a Miss Mamma. È vero, Lidia? Buongiorno a tutti. Ciao Lidia, ma è vera questa storia? Cos'è successo con tuo marito? Allora, io mi sono sposata nel 2004, sì. Dopo quasi 4 anni e mezzo di matrimonio ho sorpreso mio marito a letto con un'altra. Ma come l'hai sorpreso? Queste cose sembrano... Con un altro o con un altro? Sono successi 2 episodi, sia con un uomo sia con una donna. Ammazzo! Non si fa manca niente tuo marito. Come dire, accontentava tutti tuo marito. Vabbè, adesso non è più mio marito perché ci siamo separati, quindi... Vorrei vedere. E come ci sei rimasta tu? Allora, io quando è successo questa situazione ho fatto le valigie, praticamente me ne sono andata e gli ho detto ci vediamo in tribunale. Ci siamo separati nel 2008, poi nel 2009 ho conosciuto un'altra persona e ho avuto una bambina, una bimba di 6 anni che è la mia vita, vivo per lei. Quindi... Però per dimenticare un po' l'accaduto, adesso senza dire date e tutto, cioè per dimenticare un po' l'accaduto, poi hai pensato di iscriverti a Miss Mamma, giusto? No, io la prima volta che ho partecipato a Miss Mamma è stato il 2011. Più tardi, mi sono messa in gioco, però l'ho preso come un gioco, infatti la prima volta non sono passata e la seconda volta anche credevo di non passare. Le selezioni, quindi... giusto? Sì, ma no, nemmeno le intenzioni, le forme, le cose, cioè, però io sono la classica tipa spontanea, sono solare, sono simpatica. Lidia, ma raccontaci un po' il dietro le quinte di questo concorso, no? Perché, di Miss Mamma. Ci diceva l'organizzatore che comunque vi contendete una fascia e siete abbastanza agguerrite, perché sì, è divertente, è giocoso, però poi è pur sempre un concorso dove... Quando si partecipa si vuole anche vincere. No, io non sono andata per concorrere alla fascia, guarda, io non sono andata soltanto perché a me mi ha spinto mia figlia, ha detto mamma vogliamo partecipare perché sei mamma oppure tu, sei la mia mamma, sei la mia vita, quindi io sono andata, anche se non vincevo e per me è stata un'esperienza, perché comunque mi sono confrontata con le altre mamme. Vabbè, tanto tutte diranno io partecipo, sì, non per vincere. Io ho partecipato, mi sono confrontata con le altre mamme, abbiamo condiviso alcune emozioni, come ti posso dire, alcuni modi di vestire, alcuni modi di pensare. Ma ci stanno quelle però se la tirano di più, si sentono più fighe? No, allora io il mio motto, sai qual è? Non giudicare, perché prima di giudicare qualcun altro devi giudicare te stessa. Ma sei saggia. C'è rimasta solo un'ultima curiosità, Lidia, sì. Ma alla fine adesso che tu sappia, no, tanto non ci ascolta nessuno, che tu sappia, tuo marito adesso sta con uno o con una? So che sta con un'altra donna e hanno avuto un bambino 2 o 3 mesi fa. Quindi ha avuto un momento è ritornato alle origini, diciamo, tuo marito. Così so, il tuo però ex non marito. Mi interessa, non vado a mettere. Ma che non ci mi frega? Interessa, perché cioè comunque io ma mi sì, ma sì, ormai hai voltato pagina. Hai voltato pagina, insomma, con Miss Mamma, insomma, hai un futuro davanti a te, insomma. Io non mi aspetto niente perché dalla vita come ti posso dire, la vita è fatta di gioie e di dolori. Non voglio essere scaramantica. Adesso ci sei e tra 5 minuti non ci puoi stare. Speriamo di no. Grattiamoci un pochino. Ferro, insomma. D'accordo la saggezza, però insomma. Speriamo di tutto. Va bene la saggezza, va bene le cose profonde, però insomma. Sì, prendila come va, vivila più che mai. Va bene, grazie Lidia. Ciao Lidia, grazie. Ciao. Grazie, un bacio a voi, buon lavoro. Sto Miss Mamma rende le mamme sagge e profonde. Sagge e profonde. E se Lidia, che non ha vinto, è comunque saggia e profonda, figuriamoci quanto è saggia e profonda, no? La vincitrice di quest'anno. Non voglio neanche immaginarlo. Miss Mamma Italiana, bellezza e simpatia, Patrizia Lovato, ci sei? Buongiorno a tutti. Patrizia, complimenti, tu sei la Miss. Sì, sono stata incoronata Miss Mamma Italiana 2016, urra! Dai, ma quanti anni hai? Allora, io ne ho... Non si dovrebbe chiedere, a una donna. 39 settembre, ma vabbè, ma non lo diciamo. È l'età più bella di una donna, è il momento più bello, la bellezza è il massimo fulgore per una donna a quell'età, pensa che meraviglia. Guarda, si dice così, effettivamente, si acquista più fascino, sì, secondo me è come dire sposa bagnata, sposa fortunata. Senti, ma una come te, che lavoro fa nella vita di tutti i giorni? Allora, io ho un negozio di forniture industriali, ferramento, utensileria, che non c'entra niente con questo mondo. Quindi ha a che fare con chi fa ristrutturazioni, muratori, gli idraulici, giusto? No, con chi fa meccanica. Ah, meccanica. Quindi tornerie, non so, così. Ci provano tutti? Parecchi uomini. Ma sì, lavoro prevalentemente con gli uomini e mi piace lavorare con gli uomini. Pensa questi poveracci a lavorare con te. Con Miss Mamma, da qualche settimana a questa parte lavorano con Miss Mamma. Ci stanno quelli che ci provano? Sì. Sì, vabbè. Figurati, insomma, perché Patrizia è bellissima. Basta mettere i paletti, tutto si aggiusta. Sì. Poi sai com'è, nella saggezza di Miss Mamma il giardino del vicino è sempre più verde, no? Quindi poi ti abitui un po' alla bellezza e quindi non ti rendi conto a volte di... Non so, come un marziano a Roma, no? Esatto, alla fine bravo, come come quando tu abiti a Roma che c'hai il Colosseo davanti e ci passi davanti e non te ne frega niente, arriva il turista, cioè, voglio dire che te la stai un po' tirando, ti stai paragonando al Colosseo. Mi stavo parlando, non è che ti sei un po' montata la testa da quando hai vinto il titolo? No, ma che poi insomma ho vinto Miss Mamma Italiana, non è che ho fatto delle cose straordinarie, ho salvato il mondo. Mo non buttarti giù, insomma. No, cos'è allora, che ti ha spinto, Patrizia, cos'è che ti ha spinto a partecipare a un concorso di bellezza? Ma sai che, allora, me lo sono chiesto anch'io, io ho partecipato nel 2002 a Miss Italia, e, ho vinto una fascia nazionale, sono arrivata in finale, e vabbè, insomma, poi sono tornata a casa, ho fatto il mio percorso di vita. E mi che ti ha portato a Miss Mamma, giusto? Che mi ha portato a Miss Mamma, perché... perché poi io ci ho pensato, perché ho partecipato a questo concorso, è stata un po' una rivalsa verso la vita, verso io da bambina ero praticamente piccola, grassa, con la benda nell'occhio, perché praticamente guardavo solo una testa. Il classico brutto anatroccolo. Quindi, quindi per me è stata un po' una sfida. Ok, e, infatti io volevo dire a tutte quelle bambine che si sentono brutte che c'è sempre nella vita la possibilità di rivalersi, no? Di fare qualcosa comunque di bello. Io, senti, di là, tu sei mamma di quanti figli? Di un bambino, Lorenzo, che ha 4 anni. E come e se tipo Lorenzo, tipo tra qualche anno dovesse dirti: mamma, ma che cazzo fai, ti metti a partecipare ai concorsi? Che cazzo... Tu come gli risponderesti? Beh, guarda che credo che questo è l'ultimo concorso che faccio, poco ma sicuro. Ah, quindi finito? Ti ritiri dalle scene? Io spero che sia comunque un, tra virgolette, trampolino di lancio per arrivare dove? Interessanti. Dove vuoi arrivare? Io non voglio arrivare in punti particolari, in posti particolari. Se riesco a fare qualcosa in zona, comunque a livello televisivo... la cosa mi piacerebbe. Ah, tu aspiri alla TV? Certo. Io lavoro già per una TV sul web. Gira che ti rigira, vedi? Così. Poi faccio parte di una compagnia teatrale, quindi per me comunque è stata una vittoria. Senti, comunque, adesso Patrizia, scherzi a parte, cioè io e Filippo comunque abbiamo degli agganci, delle cose, insomma, cioè conosciamo produttori, sì, sì. Cioè tu se vabbè, vuoi... interessante. Mediaset, cioè, Mediaset, insomma, possiamo arrivare in Rai, anche in Rai, insomma, abbiamo delle cose. Sì, sì, cioè, sì. Ne vogliamo parlare, mandaci delle foto. Dai, vi manderò le foto, non vestitissima. No, ma dai, ma basta guardare il mio foto profilo. Ci possiamo magari beccare tipo magari che ne so, stasera a cena sei libera? No, devo stare. Sono a cena con un uomo favoloso che è il mio bambino. Allora mi sa che la carriera nel mondo dello finisce qua. Sì, ahimè. Sì, sì. Finisce qua. Noi puntiamo sul talento, cara Patrizia. Insomma, quindi facciamo una cosa. Tu pensaci, perché peraltro. Non tanto guarda, io, ma Filippo, sai che insomma potresti andare con 2 bronzi di Riace, insomma, quindi non è poco. Comunque tu pensaci, noi magari ci risentiamo in una delle prossime puntate, ti ringraziamo per esserti sentita fuori posto, ti lasciamo, ma non prima di averti fatto un'ultima domanda. Tu, siccome il nostro programma si chiama Fuori Posto, no? Ti senti un po' più a posto da quando hai vinto il titolo Miss Mamma Italiana? Ti senti un po' meglio con te stessa? Dicci la verità. Assolutamente sì. Oh, che bello senti una persona finalmente sì. A posto. Ciao. Vabbè, Patrizia. Grazie di tutto, Patrizia. Grazie a presto. Buona ciao. Giornata. Ciao, ciao. Niente, è fallita la nostra operazione. Patrizia, non c'è cascata. L'operazione Sozzoni è fallita miseramente. Senti, noi che facciamo? Torniamo tra poco? Torniamo tra poco, con i Fuori Posto. Prima di tornare, vuoi ricordarsi i numeri, la pagina Facebook? Ma sì, se proprio non c'è niente da fare, se avete fatto appena adesso il bagnetto e dite vabbè, voglio scrivere Fuori Posto, l'indirizzo è questo qua, ifuoriposto@radio24.it. Se poi volete mandare un messaggio in segreteria, c'è lo 02 465 24 182, e via sms al 349 23 86 666, oppure la nostra pagina ufficiale Facebook i Fuori Posto. Noi torniamo tra pochissimo. I Fuori Posto. Gloria. Perché da un po' di tempo a questa parte partono questi successi di Umberto Tozzi? Guarda, me lo sto credendo anch'io, però è bellissimo sentirli, perché sono i successi delle estati di fine anni 70, sì, no? Sì, sì, sì, sì. Che hanno fatto la storia del nostro paese. Dei tuoi tempi, diciamolo, dei tuoi tempi. Diciamo, dei miei tempi, purtroppo. Però devo dire, anche se sono successi dei tuoi tempi, ricordano, no? Gli innamoramenti. Sì, gli innamoramenti, i ricordi, il dolore per aver perso Gloria, appunto, no? Pensa quanto sto messo male. A me ricordano sempre lei. Lo so, ma sono fatte apposta queste canzoni, proprio per farti soffrire a te, Umberto. Gloria, manchi tu nell'aria, no? Io adesso censuro, ma a me manca lei. Ti manca. Sì, mi manca. Allora, facciamo una cosa, Umberto, ne approfitto. Lui è qui, glielo dico a lei, eh. Umberto è qui che ti aspetta a braccia aperte. Sì, qui, a io Radio sono 24. Qui. Ti aspetta, te prego, se non ce la faccio più. Pensa che bello, prego, se portatelo via. Pensa che bello se all'improvviso mi chiamano dalla vigilanza e dice c'è una ragazza per te, lei è... Che bello, Umberto, guarda. Così lo libero di questa storia. Che bello. Ti mollo qui. Ma magari, ma io infatti sto facendo il tifo perché così mi libero di te. Ah, hai capito? Mi vuoi sfanculare? Certo, ce la faccio più questa storia. Basta. Eh sì, questa storia che ormai appassiona un sacco di ragazzi, no? Perché poi. Sì, incredibile. Cioè, tutti noi. Perché poi alla fine tutti noi abbiamo vissuto. Tutti noi umani, esseri terrestri, abbiamo vissuto un dramma d'amore, no? Tutti noi abbiamo avuto la nostra gloria. Anzi, approfitto per dire, no? Approfitta. Io penso a lei e le mando un bacio. Il tuo classico bacio. È un bacio bellissimo. Peccato che soltanto io posso vedere questa scena che è veramente commovente. Sì. Umberto che bacia il microfono, sì, pensando, sì, a lei. Comunque, oltre Gloria, no? Che è un grande successo di Umberto Tozzi, no? Certo, diciamolo. Questo è discutibile. Pronto? Chi è? Ragazzi, ma chi è? Che Umberto Tozzi? Stavo già capendo. Ma scusate, ma adesso mi incazzo con la regia. Sono ma non ho capito. Ma Ciruzzo Tozzi può entrare in diretta? Sono che è casa sua? Allora Umberto sì e Ciruzzo no? C'è una certa differenza, se permetti, tra Ciruzzo, no, e Umberto. Cara Radio 24, volevo dire una cosa. Dica. Prego, prima di tutto, la canzone Gloria di questo parente serpente che io trovo da. Perché parente serpente? È una bravissima persona. Quello è un film, peraltro. È il plagio? È il plagio sfacciato di un mio pezzo del lontano mille. No, vabbè, adesso non mi ricordo. No, diciamo. Andiamo prima, vi dico solo la cosa com'era. La cosa era Patti, dedicata alla mia ragazza, si chiama Patrizia, appellativo era Patti. Patti. Ma niente più parole. Adesso voglio i fatti, me la devi dare. L'hai copiata? Ovviamente è sempre un cafò, me la devi dare. Ma che? Sì, poi ho copiato la canzone e ha trasformato la canzone da Patti in Gloria. Capito? La canzone l'ha trasformata in Gloria perché? Perché non Patti gliel'ha data e quindi lui ha fatto alleluia, gloria, quindi scusami Ciruzzo, quindi era un'ispirazione di Umberto, cioè quindi l'ha scritta lui veramente questa canzone? No, la canzone era Patti, poi lui che cosa ha fatto? Si è fregato anche la ragazza, quel serpente, quello, guarda, lui non me lo aspettavo. Allora, per chi non capisse da casa, scusa un secondo per riassumere, Ciruzzo Tozzi, no? Sempre in esclusiva dei nostri microfoni, dei Fuori Posto, sta accusando Umberto Tozzi di plagio, è giusto? Sì, lui si è fottuto questa canzone che io ho fatto. Che era scusa, ma come parli? Al massimo mi ha plagiato. Però vabbè, non ho plagiato, se fa la stessa cosa. No, diciamo, il concetto non cambia. Fottuto con plagio, cioè, insomma, vabbè, insomma. Cambiando l'ordine, come si dice? Però ecco l'economista che vede la matematica. Cambiamo l'ordine dei denti, il non cambia, insomma. Sì, mo dei denti, cioè, ti ha rubato la canzone, giusto? Vabbè, ecco, bravo, bravo. E poi lui che cosa fa? Si è fregato la ragazza, che era mia, Patti, se l'ha, diciamo, combinato con quello che fa. E poi dopo che ha fatto come voleva fare, alleluia, me l'hai dato al buio, poi ha fatto un po' di cose, ha fatto gloria, come diceva una metafora, dice gloria, finalmente, capito, come alleluia, è una specie di metafora, come dire, ho detto bene, metafora, no? metafora, però come al solito, qui però purtroppo qui come al solito divaghiamo, Umberto, porca miseria, sempre per parlare dei cazzi di Ciruzzo ci scordiamo dell'argomento principale, che è l'economia. Comunque, prima di arrivare all'economia, no? Sì, prima di arrivare all'economia, scusate, posso dire solo una cosa e poi fare... Prima di arrivare all'economia, se incontrate Umberto, dite così, ha detto così Ciruzzo, se ti acchiappa per la strada, ti sputa in faccia. Ma che volgare, ma chi si permette? Ma come ti permette? Ma poi la violenza, le offese. Cioè che violenza è? Dai, una sputazzella. Ma dai, grande cantante, quello ha vinto pure Sanremo. Che scherziamo, ma chi si permette? Dai, quante volte Totti ha sputato in faccia ai calciatori e gli altri? Ma non è vero, ma infatti l'hanno squalificato, non si può fare, Ciruzzo. Vabbè, ma che c'entra? Poi che c'entra? Lì è la concitazione del gioco, dell'azione. Che vuol dire? È che ci si sa loro relazione lì e poi un sacco di gente l'ha vista a Totti. Ma poi guarda che poi ti nemichi tutta la discografia italiana. Umberto Tozzi è grande amico anche di Gianni Morandi, di Ruggeri. Non lo so. Ti metti contro tutti? Ciruzzo contro tutti? Ciruzzo con io no, con gli altri non c'è niente, anzi io vi stimo, ti voglio bene, a volte ci incontriamo con Gianni, Mo Gianni Morandi si mette in contro a te, Ciruzzo Tozzi, ma che cazzaro questo è. Facciamo la pizza con lui, sì, magari pure Gianni Morandi ti ha fregato le canzoni. No, Gianni no, quello che c'è nella persona seria, Gianni Morandi, non perché Tozzi quello no. Umberto è proprio la famiglia, i parenti si spendi, è proprio la famiglia, quello è un guarino. Ma scusa, mo perché tu ti chiami Tozzi, mo Tozzi si chiama pure Umberto e niente, è serpente, cioè ma ragazzi, parliamo di... Perché mi chiamate? Ma poi, perché, scusa, Ciruzzo, ma ci fai capire una cosa? Umberto Tozzi è toscano, tu sei napoletano, ma sta parentela da dove nasci? Ragazzi, scusate, ma dobbiamo parlare di economia? Vogliamo parlare di economia? Messa alle strette, fa sempre rispondi, così. Rispondi a questa domanda. Se tu... Rispondi a questa domanda. Se tu sei napoletano, di Mondragone... Io sono napoletano. E quello è toscano. Che va azzeccate? E che c'entra? Perché uno non può essere andato ad abitare in Toscana da tanto tempo, da piccolo. Che c'entra questa cosa? Poi lui non è toscano, lui è di napoletane. Lui è ti conviene parlare di economia? Madonna è americana, Madonna. Madonna è americana, certo. Quindi... No, il nonno era dell'Abruzzo, no? Non lo ricordo, dove era. Vabbè, allora secondo sta tua teoria tu puoi essere parente di Céline Dion. Che c'entra, ma ragazzi, dobbiamo parlare di economia, dobbiamo parlare di cose. Parliamo di economia. Guadagna testa pagnotta, Ciruzzo. Parliamo di economia, forza. Allora, oggi parliamo c'è... il vostro consulente. Ma voi dite conto. Fuori economia, avete... parte la nostra rubrica Fuori economia, dai. Eccoci qui, bentrovati. Ecco qui il momento più atteso dai nostri ascoltatori di Radio 24, perché si parla di un tema molto importante che è appunto l'economia, Umberto. No? Allora, Donatella, no? Sì. Ci scrive. Ma non fa commenti volgari. Donatella, commercialista di Milano, ci scrive. Già si sta eccitando, Ciruzzo. Ma che c'è? L'ormone a palla? Che sarà il caldo? L'estate? Umberto, basta con l'ascoltatrice, basta perché questo si eccita. Donatella ci scrive: siccome ho messo da parte un po' di soldi, no? Vorrei sapere in quali azioni investire. Caro Ciruzzo, mi aiuti? Mi invidi a nozze, Donatella. Donatella non ti sta invitando, no. Vuole un consiglio, Donatella. Appunto, il consiglio è questo: mi inviti a nozze, Donatella? Quella allora, devi investire. Quella vuole investire in azioni. In quale azioni puoi investire? Cosa pensi delle azioni tu? Innanzitutto, delle azioni, quando le azioni sono quelle buone, vanno, sono buone. Le azioni cattive non vanno. Questa è una banalità che hai detto, però insomma, non è che uno investe in azioni cattive. La vita, ragazzi, Donatella, senti Donatella in questo momento. Sì, ti sta sentendo. Ti ascolta. Sta pure aspettando che tu gli dia una risposta. Ti ascolta, vai. Senti, bella. Donatella, prende confidenza. Vuoi investire nelle azioni? Allora, un'azione buona che tu devi fare, Donatella, è mi inviti a nozze, questa domanda. Perché se tu mi inviti a nozze e investi col matrimonio con un nome erotico di San Famoso, ti sposi con un gira che ti rigira, si deve vedere sempre i cazzi suoi. Vedrai i tuoi soldi, ma ce l'hai i soldi questa? Ce l'ha. Ha detto ha dei soldi da investire in azioni. Quanto, diciamo, quanti Ma non lo so, non è che posso parlare con Donatella. È pure in delicato. Davvero, diciamo, a tetto giro? Beh, scusami, siamo partiti dalle azioni. Cosa pensa delle azioni? Che stiamo parlando? Dalle azioni, dai fatti. Ma non delle azioni, basta con le parole. Non hai capito niente. Le azioni dell'SRL, dell'SPA, le azioni. Le azioni che ti permettono poi di vincere, non domani. Certo, le azioni che ti permettono di vincere sono... Ah, ok, capito, scusate ragazzi, all'ultimo mi confondo perché meno male. Vabbè, hai capito di che azioni stiamo parlando? Le azioni che ti permettono di vincere, vogliamo parlare di quelle. Sì, per forza, certo, di vincere. Non è io non è che sono proprio, diciamo, esperto, devo essere sincero, no? Però la mia opinione, diciamo, da neomelotico tifoso, la posso dare. Tifoso, ma che c'entra il tifo? Sì, perché le azioni... Fallo parlare, perché magari dici... Speriamo. No, dico, le azioni vanno fatte con dei moduli giusti. Per esempio, il 4-4-2 a me ma quali sono le azioni di calcio? Ma scusa, ma già altre volte sei rimasta ancora... L'Italia con delle buone azioni, secondo me, avrebbe potuto fare di più, perché l'azione era proprio quella che ma mancava. Ma che c'entra il calcio? Ma l'Italia di Conte, ma che stiamo parlando di azioni di società? Scusa, ho capito, vabbè ragazzi, basta che siamo chiari. Lasciamo stare l'Italia e parliamo della società. In questo caso posso parlare della società del Napoli, che è la mia squadra del cuore, però anche le altre società, quando investono... Ma che ce ne frega del Napoli? Salutiamo tutti i tifosi del Napoli che ci ascoltano e sono tantissimi, ma vabbè, stiamo parlando di azioni per vincere in borsa, capito? Per guadagnare uno che deve fare... Per guadagnare uno deve fare buoni investimenti. Bravo. E qual è un buon investimento? Per esempio, sposare la persona giusta. Torniamo, diciamo, al punto di partenza, sempre là. Sposare la persona, diciamo, c'ha dei buoni soldi e vuole investire bene, si sposa la persona giusta. Io posso aiutarla in questo. Guarda caso, saresti tu la persona giusta. E certo, perché se tu investi nel neomelotico, oggi il neomelotico va assai. Il mio melodico è la nuova, il nuovo cantante. Quindi il tuo consiglio di oggi è investire nello sposare un neomelodico giusto, che guarda che gira, che ti rigira, sei guarda tu. Po'. Oh, però attenzione, non è che guardiamo solo esotico, No. Anche sentimenti? Se la ragazza, diciamo, è proprio una racchia, proprio brutta. Che essere volgare, mamma mia. Perché la donna deve essere per forza bella, scusa. Guarda. No, però così, se è così, e c'hai i soldi, va bene. Vado bene io e va bene lei. Diciamo che la vita è questa, no? Diciamo che noi possiamo. E questo è il messaggio che io voglio dare oggi a tutti gli ascoltatori. Sì, diamolo questo messaggio. Allora, il messaggio è questo: la vita è fatta di dare e avere. Certo, vedi, l'economista. Se la danno e lo prendo, insomma, è buono. Facciamo finta di non aver sentito. Anche per oggi lasciamo i nostri amici a casa con questo consiglio, no? Se volete investire, sposate un neomelodico. Scusa, ma sto consiglio poi non funziona? Funziona solo per le donne? Questo consiglio funziona anche per gli uomini, naturalmente. Sempre un neomelodico si devono sposare gli uomini. Stiamo parlando di Donatella, no? Ho capito, ma mica sono tutte Donatelle. C'è pure gli uomini. Io, per esempio, un neomelodico non mo sposerei mai, non so perché, ma... Ma si può sposare una neomelodica? Non fa una piega. Io tengo una mia amica, ragazzi, c'è una mia amica che si chiama Natascia Pesce. Guarda, possiamo fare una cosa, possiamo parlare di Natascia Pesce un'altra volta? Forse è meglio. Sì, facciamo, anche perché lei è bravissima, Va bene, ok, grazie guarda, Ciruzzo. Grazie a voi ragazzi, grazie viva l'azione. Se volete fare domande a Ciruzzo, scrivergli o comunque proporvi in moglie, perché no, potete andare sulla nostra pagina Facebook, che è I Fuori Posto. Certo. Oppure scriverci a ifuoriposto@radio24.it. Oppure, Filippo? Oppure mandarci un messaggio in segreteria allo 0246524182 o un sms o WhatsApp al 349-2386666. Allora, per fortuna, Umberto, ci siamo liberati di Ciruzzo. Direi a fra poco. Sì, a fra poco con, insomma, mi pare giornalismo d'inchiesta questa volta. Porca miseria. Fuori Posto. Ancora qui, cari amici, ai Fuori Posto, Umberto Lezio e Filippo Roma. Caro Umberto, abbiamo una grande fortuna, perché ci stiamo avvalendo del contributo di un'inviata di altissimo livello giornalistico. Un'inviata d'assalto, no? Un'inviata d'inchiesta. Cioè, anche, non dovrei dirlo, ma lo dico, so che Milena Gabanelli di Report l'ha contattata per farle una maxi offerta, perché si è appassionata alle inchieste di Valentina Busiello, che oggi è qui con noi, giusto Valentina? Buongiorno a tutti voi, sono onorata di essere qui con voi. Ciao Valentina, grazie. Un bacino, Valentina, grazie ancora di essere ancora qui con noi, perché noi abbiamo bisogno di notizie. Sì. freschi. Noi ci colleghiamo, no? I fuori posto in esclusiva, giusto Valentina? Sì, assolutamente in esclusiva. Assolutamente, sì. Meno male. Cioè Valentina Busiello riceve chiamate da le radio e le emittenti di tutto il mondo, anche la BBC le ha chiesto un collegamento. Ed è solo con noi, è sicuro? Lei sì. È solo con noi. Lei è solo sono con in esclusiva, sono in Valentina, esclusiva. Grazie. Sapete grazie, dove grazie. Valentina? Nel regno dei VIP in questo momento, nel regno dove tutti noi vorremmo stare, Filippo, giusto? È il nostro billionaire. Al billionaire, quindi in Costa Smeralda, giusto? Costa Smeralda. Nel cuore dell'estate. Bellissimo sole, bellissimo mare nel cuore dell'estate. Oggi è alla, come dire, è nel luogo, il billionaire ovviamente vive di notte, noi adesso siamo a quello che è definito una sorta di billionaire beach, no? Cioè la spiaggia dei VIP, giusto? Sì, bellissimo. Ci sono degli aperitivi chic. Ah, ottimo, bello. Ottimo. Come sono questi aperitivi chic? Champagne, bollicine, vodka, insomma, Grey Goose. Hai capito? È ancora veramente un bel tè di sogni. Io al massimo una gazzosa con un po' di limone, se c'è. Al massimo un po' di chinotto. Ma qui è un ambiente VIP. Ma chi c'è? Chi c'è? Sulle tracce di chi stai? Allora, in questo momento c'è a prendere il sole la moglie di Paolo Bonolis, Sonia. Addirittura, Sonia. Addirittura. Non ci credo, non ci credo. Sole. È lei? È lei, sembra lei, proprio lei. Sì. È bellissima donna. Con gli occhialoni da sole, sì, molto bella, bionda, magra, una silhouette. Ma non sarà l'unica, no? Svelaci qualche altra chicca. Sì, dai. In giro poi magari fosse Manuela Scuri? Manuela? Forse Manuela Scuri. Attenzione, ma da sola in compagnia? Guarda, in compagnia. Di chi? Di chi? Di una persona un po' grassa con la pancia, insomma. Cioè, di un ciccione? O di chi, sì. non è in compagnia di un maschio aitante, no? Cioè, lei è una bellissima donna. No. Non so chi sia questa persona, penso strano, sia. Io vorrei fare una grandissima parentesi, no? Come una casa, no? Sulle grandi inchieste, no? Che fanno i fuoriposto a Radio 24 in collaborazione con la grande giornalista Valentina Busiello. Che non finiremo mai di ringraziare. Noi puntiamo Umberto anche al Pulitzer a sto punto. Grazie. Più che altro Valentina, allora ti piacerebbe avere un riconoscimento come il Pulitzer? Vediamo, vedremo. Diciamo, che cos'è il Pulitzer? Cosa che ti piace del Pulitzer? Non saprei, al momento non saprei. Dovrei valutare. Una cosa del Pulitzer che ti attrae? Non penso nulla. Ma diciamo, giustamente, perché ormai lei è che andata... gli frega del Pulitzer? Sai bene o male cos'è il Pulitzer, no? No, in realtà no, quindi... Vabbè, ma che ci frega, ora dobbiamo parlare del Pulitzer, stavamo a Manuela Arcuri, cioè... Torniamo a Manuela Arcuri. Hai ragione, qui stiamo sul campo. Allora, Valentina, sei sempre sulla spiaggia di Porto Cervo, giusto? Sì, giusto. C'è Carmen Russo con Enzo Paolo Turchi. Addirittura, addirittura. Sì. Addirittura. Con una coppia strana. Come una coppia strana? Che vuol dire una coppia strana? Non so, sono accoppiati con una coppia strana. Sono accoppiati? Che starà a fare la cosa a quattro? Cioè, in pieno giorno si stanno accoppiando? No, non è che si stanno accoppiando. Stanno chiacchierando con una coppia strana. Ma tu sei sicura di questo? Sei sicura? Sì, assolutamente sì. Che peccato che non ho una foto. Magari vi inviavo una foto su WhatsApp. Senti, mi dicevi stamattina, quando ci siamo sentiti nella riunione di redazione, che poi c'è quest'usanza molto carina, molto simpatica e molto, soprattutto molto intelligente, che è quella di fare a un certo punto al tramonto la guerra con lo champagne, no? Sì, per fortuna sì, c'è questa guerra di champagne. Ah, c'è divertente. La guerra di champagne. Raccontacela questa guerra di champagne. Divertente tra piscina, tra mare. Ma tra chi è che combatte? Chi è che si tira lo champagne? Chi? Guarda, la coppia proprio Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Ah, sempre quindi. Loro. Ottimo, ma ci sono anche i calciatori, facci sognare, noi che siamo due sfigati qui a Milano. Marco Borriello. Ah. Ottimo, poi? Lui, fratello che Fabio Borriello, insomma. Sono accompagnati con delle ragazze. Sì, Emma Morrone. Emma Morrone? Sì. Cioè, mi pare di capire un ambientino molto chic. Molto chic, sì. Fanno questa guerra di champagne, nonostante la crisi, ci sono champagne da tutte le parti, insomma, bollicine, Grey Goose, insomma. Don Perignon. Scusa, quante Don Perignon? Una domanda che ci fa Paolo, no? Che ci scrive sì. Adesso su WhatsApp. Quanto è importante in un ambiente chic usare lo champagne? Io penso che in un ambiente chic usare lo champagne è il massimo. Ottimo. È il massimo. Filippo, del tu concordi? Mi segno questa cosa, sì. Me la segno sul quaderno. Perché Filippo perché... è un coatto, no? È un coatto che non conosce sapevo, bene non gli sapevo, ambienti adesso chic. Me lo segno per, com'è? Per frequentare un ambiente chic è necessario... Lo champagne, sempre lo champagne. Ma c'è una marca in particolare? Così non faccio brutta figura. Penso la Don Perignon sia l'ideale, quello più costoso. Quello più costoso. Senti, Valentina, siccome sono tantissimi gli ascoltatori che ci chiedono se tu sei fidanzata, possiamo svelare il segreto? Oh, e come mai questa domanda? Beh, perché secondo me, no Filippo, molti sono stati ammaliati dalla tua sì, voce. È inevitabile che ciò accada, Valentina, quindi è normale che te lo chiedano. Addirittura? Sì. Sei fidanzata? Ma guarda un po'. Preferirei non rispondere. Lasciamo il mistero perché è giusto così. Sì, cioè, lasciamo... Mi piace lasciare il mistero perché magari la prossima volta possiamo replicare. Possiamo replicare perché insomma diciamo che il cuore di Valentina Busiello potrebbe essere libero, potrebbe. Ciò che sperano i nostri ascoltatori, Valentina, qui sono tutti quanti innamorati di te ormai. Sentite il vento sulla sì. Incredibile, proprio sta sul campo, è il giornalista che sta sul campo. La giornalista. È proprio la giornalista che sta sul campo e che sta lì. Si sente il vento, la gran professionista diciamo. Senti, e invece per questa sera è prevista qualche festa chic? Questa sera al Billionaire sicuramente c'è una bella festa chic. Ottimo. E con insomma con una musica, un DJ internazionale. Come si fa a entrare? DJ Solomon e quindi... Solomon? Sì. Ah. Sì. Quindi stasera se si vuole essere chic e ancora più al posto giusto bisogna andare al Billionaire, giusto? Al Billionaire, al Billionaire. E incontreranno anche te? Sicuramente. Ma immagino, Valentina, non sia una cosa da tutti purtroppo, no? Non possono entrare tutti, immagino. Bisogna essere scicchissimi. Qual è il dress code di questa sera? Dress code è il bianco e il nero. Ottimo. Tutti gli ospiti con un bianco, con qualcosa di bianco e nero. Elegante. Pensa che se parlo di bianco e nero, un coatto come Filippo pensa io solo a Juve. Io penso a Juve, ma infatti io per quello non posso entrare. Non posso, ma lui è un cavaliere, si distingue. Insomma. Senti, ma tu eventualmente, Filippo, riesci a farlo imbucare dentro magari una delle prossime sere? Ma certo, sicuramente, sempre ospite gradito Filippo, ma anche tu Umberto. Grazie. Ma io ormai mi sono ritirato da questi ambienti. Ma poi ne siamo personcine così, un po' da poco. Io ho il cuore ormai perso, insomma, poi questo è un altro discorso. Comunque, hai detto... il cuore perso? Ho il cuore, sì, un po'... È una vecchia storia. È una vecchia storia, ma ti annoierei. Ah, cioè, stiamo parlando di cose sciccose, dai. Parliamo di cose sciccose. Senti, ma parliamo di queste cose che sono belle. Parliamo di... Come si fa a far colpo su una donna chic come te? Cosa deve fare uno chic per far colpo su una donna chic come te, sciccosamente? Ma perché io sono chic? Beh, ce lo scrivono tutti. Fai una vita da chic. Non sapevo che era chic. Allora, va bene, sì, un gesto allora chic che deve fare un uomo? Un gesto chic che deve fare un uomo è essere molto ben educato. Ottimo, ottimo. E offrirti un bicchiere di champagne? Sono astemia, purtroppo. E cosa ti deve? Un bel regalo? Una bella borsa, un bel paio di scarpe? Cosa ti deve regalare? Ma anche dei fiori vanno bene. Hai visto? Sì. Valentina è una umile. È una gran professionista, è molto chic. Grazie. Ed è anche umile. Veramente. Ed è anche umile. Senti, ci vuoi... Facciamo così, in attesa poi ci racconterai com'è stata la festa, no? Sì. Ci vuoi lasciare sempre per i nostri radioascoltatori... con un altro gossip dell'estate? Sì, sicuro. Allora, perché Filippo s'appassiona a sti gossip. Sì, veramente. Al Billionaire quest'estate c'era Briatore in compagnia di un'altra donna. Di un'altra donna? Ma come? Quello sta con la Gregoraci, ma veramente un'altra donna? Sì, non so, non conosco insomma il nome di quest'altra donna, ma era una bionda. Niente. Valentina, io sono veramente... emozionato di averti come collaboratrice, ma tu ci prometti che continuerai a collaborare con noi? Sì, sicuramente. Veramente. Sono onorato. Possiamo dire che questa collaborazione tra Radio 24, I Fuori Posto e Valentina Busiello è una collaborazione molto chic, di gran prestigio? Certo, Valentina, allora facciamo un così. Un di gran prestigio. Tu grazie. Tornerai molto presto a collegarti con i Fuori Posto e in esclusiva quindi con Radio 24. Noi ci ritroviamo a questo punto domani, no? Giusto, Filippo? Ci ritroviamo domani, Salutiamo la nostra inviata chic, Valentina Busiello. Intanto, prima di salutarvi, vi ricordiamo i modi con i quali poterci contattare. Ai fuoriposto@radio24.it. Lasciando un messaggio in segreteria allo 0246524182 o mandandoci un sms su WhatsApp al 349-2386-666. Anche per oggi è tutto, caro Umberto. Sì, ricordiamo anche la nostra pagina Facebook, giusto. Ci siamo, che è i Fuori Posto. Anche per oggi l'abbiamo sfangata. Sfangata anche oggi. Vi aspettiamo però anche domani, puntuali, ore 10, con i Fuori Posto. E non è detto che anche domani non ci sia lei, lui, noi... Insomma, i Fuori Posto è questo. Insomma, Radio 24, a domani 10 in punto, puntuali. Ciao.